Italia in controluce. Italia in controluce, l'approfondimento della redazione di Radio 24 sulla cronaca italiana. È un programma coordinato e condotto da Daniele Biacchessi, che racconta le piccole e le grandi storie italiane. Che fine hanno fatto le indagini su una bomber, la persona che ha realizzato nel nord-est un numero impressionante di attentati? Andrea Saule. Sono passati quasi 16 anni dal primo attentato, 4 dall'ultimo. Una bomber, il dinamitardo che con una trentina di ordigni ha seminato il panico a cavallo delle province di Pordenone, Udine, Treviso e Venezia, non ha ancora un nome. E quello che è peggio, le indagini si sono praticamente interrotte. Il pool di investigatori è stato infatti smantellato dopo il clamoroso buco nell'acqua fatto con il principale indagato, l'ingegnere Elvo Zornitta, prosciolto da ogni accusa nel 2009, dopo che a suo carico era stata di fatto fabbricata una prova, un lamierino manomesso dagli inquirenti. In primo grado, per questo motivo, è stato condannato il perito balistico Ezio Zernar, accusato di aver falsificato la prova. Con il cessare dell'attività del bombarolo, l'ultimo episodio risale ufficialmente alla primavera del 2006, anche se si dice che siano stati trovati in seguito ordigni inesplosi, sono cessate anche le indagini. Ci spiega il motivo Roberta Bruzzone, criminologa tra gli autori del libro Chi è una bomber, edito da Liberty. Credo ci siano una serie di fattori che abbiano contribuito a questa decisione. Decisione che credo comunque sia stata molto amara da parte degli inquirenti, perché consideri che su questo pool era stata confidata grandissima speranza in relazione all'individuazione di una bomber. È chiaro che questo pool ha solo ottenuto fallimenti, e questo voglio dire penso sia sotto gli occhi di tutti. Il principale è l'indagine su Elvo Zornitta, perché comunque questa è un'indagine che è costata tantissimi soldi, che ha avuto conseguenze anche molto importanti e drammatiche per la vita di questa persona, e che è stata sottoposta a ogni tipo di accertamento per oltre 2 anni senza alcun esito. E chiaramente il proscioglimento di Zornitta è stata l'ultima definitiva doccia fredda che ha ricevuto questa squadra di investigatori, che chiaramente ha fallito, e questo fallimento è stato recepito e ammesso da coloro che questo pool hanno voluto. Elvo Zornitta, che a causa dell'indagine aveva perso il lavoro, non ha ancora rimosso la mattina in cui la sua abitazione fu perquisita. Sto pian pianino cercando di dimenticare, io e la mia famiglia. Ero completamente ignaro di tutto quando si sono presentati alle 7:15, quindi le 15 persone che hanno fatto la prima perquisizione e mi hanno consegnato il mandato di perquisizione assieme all'avviso di garanzia. Non me l'aspettavo assolutamente, ma io ho aperto la porta come uno che vuole collaborare. Infatti io ho detto subito, entrate pure, non c'era bisogno del mandato per venire a casa mia. Ma chi è a questo punto una bomber? L'avvocato Paniz, difensore dell'ingegnere, è sicuro che provenga dall'estero e più precisamente dal mondo sassone per l'utilizzo di sistemi non metrico-decimali nella misurazione degli ordigni. Lo stesso Zornitta si è fatto un'opinione su chi possa essere l'autore degli attentati che, indirettamente, gli hanno distrutto la vita. Siamo di fronte a un passo che ha dato i numeri per un certo periodo di tempo e si è divertito, tra virgolette, a fare queste cose, che per qualche motivo odia la società, odia bambini, odia gli anziani, ha fatto questo. Certamente noi possiamo definire un pazzo molto intelligente. Una delle poche certezze sul caso, però, ce l'ha la dottoressa Bruzzone. Io sono convinta che in mezzo a quella mole incredibile di informazioni raccolte negli anni degli investigatori ci sia la risposta alla nostra indagine. Gli ordigni in spiaggia, nei supermercati, in chiesa o al cimitero sono un incubo ancora fresco da queste parti. Scoprire chi ne è l'autore rassicurerebbe tutti che attentati del genere non capiteranno più. Italia in controluce. La seconda storia viene dalla Toscana, è racconto di Ubaldo Cianciulli. Diamo gas all'energia del sole, aderisce al gruppo di acquisto solidale fotovoltaico, è lo slogan del progetto Chianti Solare, che coinvolge i comuni di Barberino, Valdelsa, San Casciano, Valdipesa e Tavarnelle, Valdipesa, per promuovere la costituzione di gas. I gruppi di acquisto solidale sono già abbastanza diffusi nel settore agroalimentare, ma il Chianti Solare si occupa di energia pulita, cioè prodotta dal sole grazie agli impianti fotovoltaici. I raggi solari trasformati in corrente elettrica

Vun de 70 anni le malà anche se le san. Vuol dire che a 70 anni si vado a festeggiare, non c'è più molti. Eppure, con quella barba da vecchio saggio della montagna, ai tuoi concerti tiri ancora più giovani di Tiziano Ferro. E quando parti con Lunga e diritta, il pubblico la canta per te. Lunga e diritta, correva la strada, l'auto veloce correva. Poi c'è un altro Guccini, l'affabulatore, un po' cazzone, se ci permettete il termine. Dice, sono stato alla fiera di San Lazzaro, lì o là, ho comprato due piccioni, come erano belli, come erano buoni. La scelta fu una ragazzola, oi, oi, la. Ma c'aviti, dupi, san, com'eran, ma c'aviti, dupi, san, com'eran, ma c'è un altro Francesco, che parla di stagione, di nebbia, di pioggia sui vetri. Oca che guazza nel fango, un cane che abbaia a comando, la pioggia che cade non cade, le nebbie striscianti che svelano e velano strade. Profilo degli alberi secchi, spezzarsi scrosciante di stecchi, sul monte ogni tanto gli spari, e cadono urlando di morte gli animali ignari. Ma bando alle malinconie, a ogni età si finisce così. Non so che risovesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Il resto lo sapete, tanti auguri maestro. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, www.radio24.it, dove trovate tutte le puntate e potete scaricarle naturalmente sul podcast, il nostro gruppo su Facebook e potete utilizzare Radio 24 Italia in Controluce, oppure le email, ne arrivano molte, controluce@radio24.it. Domani alle 6.30 ritorniamo su Radio 24.